Canale 23, canale 23. Attenzione, canale 23. Senti, allora faccio vedere che sia. Ok, no, stavo ascoltando, non ne ho voglia, perché non mi sento bene, capito? Stavo ascoltando e non ho voglia nemmeno di parlare, comunque sta arrivando bene oggi, oggi sta arrivando veramente bene, una bella radio, anche un bel segnale, per cui va bene, Francesco, va benissimo. Oggi già ti sento bene, rimango in quel ricchio francese, stavo chiamando a Torre stasera, ma Torre ancora non è rientrato, per cui rimango in quel ricchio francese, ok? Bon diex! Sì, ciao Toro. Ari, tu sì? Sono negativo, sono franco da solo. Ciao Fra, certo. E allora, tu vesti? Tutto a posto, Toro. Ma che è tu? E vuoi dire che non vuoi entrare, o hanno già si arrabbi? Sì, tutti di Radio Gaggio. Sì, sono tutti ritirati, che a fumo entra, va, entra. Già entro tutto io, guarda, mi fa dire, come non è entrato là, vabbè, io ti faccio fare. Andate, adesso, così bella giornata, sì? Sì, domani vuol dire, c'è ancora più bella di c'era a Roma, il buio. Mi pare che sia più lontano, io. Perché? Non ti piace il mare a te? Sì, vabbè, sì, sì. Però... Sta per lontana. Va bene ancora. Sì, guarda che c'è già gente che sta già cominciando ad andarci. Figurate un po' come abbronzarsi. Allora non abbronzo. Di giorno, che mi avete buche nude. Cioè che è bianco bianco e dice andare a mare subito ma faccio un po' carico di bilancio, un po' carico di giori, ma ancora primo giori. E allora, quello si immagina l'altra, a meno che non si fa quello, però, vabbè, vediamo che più avanti sia migliore, va? Poi da domani comincia, messo già, ha cominciato a mettere 30 gradi, anzi 32 in appunto. Quindi da domani fino a che dura. Ecco, poi speriamo. È dura, pensa che è dura quest'anno. Però ci vuoi dire una cosa del genere. Sì, sarà ancora bigiù, sarà. Ecco. Sì, vabbè. Ma sì. Attendiamo come viene. Sì, se no. Piano piano. Sì, deve essere per pagare io. Sì, anche nel 45 deve essere per pagare io. Sì, già lo so, sì. Già lo so che ce n'è parecchio propagazione. Io questa volta accendo il computer e ascolto dal computer. Come dal computer? Come fai a ascoltare dal computer? Perché c'è un programma, cioè, che puoi ascoltare. E te lo dico, mi Roma 2 RDS. Roma 2 RDS. Roma 2 RDS. Ma sai che non lo sapevo. E poi mi collego a internet. Trovi i radioamatori e vai sui 144 cliccando lì in FM. Senti i radioamatori, 4.30 lo stesso, 4.30 155, 165 ti ascolti, sono alla 27, da 27 555 scendendo. Ah, cioè, in pratica questo è una due cose, capitrini. Questi sono tutti dintorni di Roma, provincia e dintorni di Roma. Sì, ho capito. Mentre dalla 27, la frequenza è dalla media frequenza, in su o in giù? Si può dire dagli 80 scendendo sino all'1, da. USB, FM, LSB e in AM puoi sentirli. E gli altri invece, quelli là, li senti in FM, i 145 e i 430. Ecco, vabbè. Poi ci provo a vedere se riesco a beccarli. Lì è già facile beccarli subito. Si sente ragionando e buro. Ecco. Non lo sapevo che c'era questa frequenza, questo coso qua che si deve ascoltare tramite così. Ce ne sono tanti in coso di questo tour lì che puoi ascoltare. Ce ne sono anche che puoi trasmettere dal computer. Però solo che quelli sono costano. Trasmettere un casino, come fai a trasmettere da lì, dal computer? Ci vuole il microfono e via. alzami il microfono. Perché? Con il microfono si può fare. Tramite il microfono del computer. Io ce l'ho il microfonino attaccato al computer. Schiacci un tasto e puoi parlarci. Sì, quello già l'ho capito. No, io ce l'ho anch'io quei microfonini, ne avrò due o tre, l'ho fatta tutta. Ne avrò, ce l'avevo attaccati. Vabbè, se non interessava. Niente. Però non pensavo che si poteva fare una cosa del genere, no? È solo che quelli che dove si fanno le cose, quelli sono a pagamento in software. Ah, questi qua sono a pagamento, questi Roma 2 RDS. Quello no, quello è gratuito, quello è. Come lo apri, ti si apre subito, ti si apre e te lo imposti tu poi. Pagamento no, sono quelli della 27, quelli lì e quelli io. Si parlano sulla 27, sul coso USB però. O USB o in FM o in AM, però più di tutti sono in USB. Ho capito. Una bene, vabbè, quindi non è che ci interessano più di tanto, quello della 27. Voglio ascoltare quelli là, vedere. Poi non ci provo, poi vado giù e mi prendo le cose. E prendo la traccia, vedere. Buonasera signor Giomarini. Buonasera signor Torre, buonasera signor Franco. Ben risentiti. Come se la va, come se la va? Se va bene, dai. Va bene, Giomarini. Allora. Vabbè. Ero in campagna, mi sono salito poco qua. Mi sono sentito, ho acceso l'apparecchio, vi ho sentito, stai a vedere un po' chi c'è. Ascolta fra, già va bene. E cosa vuoi fare Giovanni? Quando capita che ci sei, magari sei lì da tu, ascolti, tu che quello non puoi fare, anche se per quelle frequenze lì c'ho anche la prestatura per ascoltare senza il computer, però non avevo mai sentito che si poteva entrare anche da lì. Va bene, dai. Allora tutto. Sì. Siamo in campagna calda, non è fa? Ma sì, caldo c'era caldo, però si stava bene, dai. C'era un po' d'arietta che passava, per cui si stava molto bene. E per cui... te l'ho detto, se non si fanno queste cose in campagna, in casa si rimane sempre l'odore per una settimana e più, invece in campagna puoi fare tutto quello che vuoi, non ti rompe il scatto nessuno. Quello sì, almeno lì, almeno lo senti l'odore che ti rimane. E così abbiamo fatto la stamattina e volevano farlo perché siamo usciti da stamattina. E così via. Ma allora fra, cosa ti racconti di bello? Ma niente, io Giovanni, mi sto rilassando e basta questo periodo. Anche quello il relax ci vuole, se no sono guai, cazzo. Bisogna riposarsi quando si può, quando no bisogna lavorare e basta, e tirare avanti. Infatti è così. Ancora sono al secondo mese e mi sto ancora rilassando. Dopo tanto tempo lavorando, poi faccio più impegni, andare. Piano piano vedrai che appassa il tempo, per cui dopo sei tranquillo. Ma sto un po' e sei a posto, vai. Allora tutto. Ma cosa sei? Ma sei già in pensione? Allora, io sono già 3 anni, quindi, a Vuglia, e siamo andando ad Ananzi, piano piano, vero Giomarì? Mi sembra che io passi già i 20 anni, perché io sono da parecchio adesso, però già ho lavorato, per cui ancora mi aspetta. io, una vita che sono in pensione. Marco, avete parlato di con il signor Bacchisio anche. Bacchisio, avanti con la buonasera, c'è anche Marco e con la buonasera anche a lui. Tu di questo con me, io sono con l'elicottero, buonasera a tutti, Giulio Bruzzi, ciao, sono lì avanti. Adesso stasera con gli ascolti. Insomma, già va bene, Bacchisio, va bene, non occupa, magari la voce tua così, dai. Rimane un po' occupa, però si riesce a capire benissimo. Però Marco, come lo senti a Bacchisio? Io bene, perché qua riceve più acuto e quindi qua è buono. Allora è tranquillo, va. Franco, e tu come lo senti a Bacchisio? Ma in mezzo a quel re me lo senta Bacchisio, non so come mi ascolta lui. Comunque buonasera Bacchisio, buonasera anche a Marco, me li ascoltati. E in mezzo a quel re me lo ascolta, a volte lo capisco, a volte no, perché c'è la preparazione che arriva più forte di lui. Avanti Bacchisio. Sì, buonasera Gianfranco, cosa vuoi fare? Piccolo solo. Esatto, lo sei tanto piccolo, lo sei tanto piccolo, però diciamo che a volte arriva la preparazione più forte di te. Un po' ti ascolto, un po' no. Ok, avanti Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Prima non sentivo nessuno, poi siete usciti tutti a pizzo, uno dopo l'altro. Io metterei le macchie. E oggi era una bella giornata, mi sono finite le scuole, tra ieri e oggi sono finite le scuole superiori, medie, quindi domani ci sarà l'assalto a Platamona, vedrete. Ma ogni tanto escono anche fuori, escono in giro quelli di scuola, capito? Fanno a tanti posti, capito? Anche le gite fanno. Quindi chi ha l'esame no, deve rimanere fino a giugno inoltrato, però chi non ha l'esame è già bello in ferie. Avanti Tore, si è acceso. Sicuramente si è spostato. Marco, mi ha toccato che sei una vita che non lavori, che sei in pensione, mi ha toccato. Ma io avrei preferito non sentirmi sempre stanco e lavorare. Può darsi che sia questa stanchezza di questo periodo, no? Degli ultimi anni, no? È una stanchezza proprio, sei esausto, che sia da quella cosa che ho da operare. Vabbè, se c'hai qualcosa allora è tutto diverso, perché era meglio lavorare dall'inizio che avere qualcosa, e quello c'è ragione, e in effetti è così. Vabbè, io per dire, non è che ho lavorato tanto, 41 anni, poi sono riuscito ad andarci. Spero che ci mettano qualcosa, che stanno cercando di andarci, perché è per lavorare i giovani, almeno, che se no questa Italia, c'è gente che ha 40 anni e non c'ha neanche un giorno di contributo, non c'ha. È purtroppo così. Ok. Avanti Bacchisio. Sì, ok, io ne approfitto del micro per andare in QRT. Sono solo un salutino così. Ciao Gianfranco, salutissimo, sono con Correa. Ciao Gianmarco, attore squallido, Ezio Maria. Buonasera a tutti. Ciao, ok, ciao Bacchisio, sentiamo le prossime, saluto in casa, buon proseguimento in serata. A domani se coincide, Marco. Ciao Bacchisio, buona serata, buon tutto. Buon proseguimento di serata. Io il poco che ho lavorato è sempre in nero. Poco ho lavorato, capito? È sempre stato in nero. Ciao Bacchisio, buon proseguo, buon tutto. Comunque non sono Gianfranco, sono Franco. E Gianfranco è un'altra persona, io mi presento solo come Franco. Ok, avanti Bacchisio se ci sei ancora. Negativo se ne è andato. Vuol dire che se non c'è un giorno di contributi, se hai lavorato in nero, vuol dire che non hai avuto l'occasione per poter lavorare in più. Eia, Torre, Torre Squalo, ci sei? Sì, sono entrato adesso. Aspetta, saluto a Bacchigio. Bacchigio, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao, stammi bene. Anda bene. Riprendi Marco, ciao anche a te Marco. Ok, riprendi Gio Maria. Ok, Bacchigio ha chiuso. Fatto che il lavoro dei ragazzi di oggi a Letta Nostra come fanno ad andare in pensione se non c'è lavoro, come fanno? Boh. Come si fa Marco? Adesso dico io, come si fa? A meno se ci fosse lavoro avrebbero lavorato, ma non ce n'è così, che come fanno a fare andare in pensione a Letta Nostra quella gente? Si va a rubare, capito? A spacciare o peggio. È arrivato a questo punto uno si dedica a tutto per cui la delinquenza oggi ha superato tutti gli ostacoli, capito? Per cui perché non c'è lavoro, invece se ci fosse stato lavoro magari la delinquenza sarebbe stata anche di meno. Così è fra. Questo è un modo che stanno facendo per aumentare la delinquenza, è solo quello, perché purtroppo la gente deve mangiare, deve tirare avanti chi c'è la famiglia, deve tirare avanti la famiglia, e se non ha niente cosa fa? Perché andare a rubare lo fa. Tanto per mandare avanti sia la famiglia e sia mandare avanti a lui, a questa persona, che bisogna andare avanti. Però questa gente a quanto pare non hanno ancora capito che devono chiudere il lavoro per eliminare questo delinquente. Chissà che ci riesco, ma mi sembra che sia un po' strana la questione. Per carità, siamo in troppi, già che non ce n'è per noi, poi magari toccando andare a mangiare questa gente. Eccoli là, quando vanno a rubare, li prendono, li mettono dentro e li diamo a mangiare noi, dai soldi nostri mangiano quella gente. Sì, Giovanni, ma non è il fatto che li mettono dentro, il poliziotto rischia quello che deve rischiare per andare a arrestarli, a fare, e poi vanno là, mezza giornata mi liberano anche mi liberano. Vabbè, perché un piccarello, un altro giornale ci sta anche bene di liberarli. Ma quando vedi che c'è gente tutto di fronte al massimo, che ammazzano, fanno, è inutile che il poliziotto rischia di andare a prenderli, e poi cosa fanno i giudici? Fanno il processo in diretta e li buttano fuori. E cosa ha fatto il poliziotto? Che cavolo c'è il poliziotto? Stiamo andando bene, stiamo andando e peggiorando. Oh no Marco? Eia. Poi anche se ti danno qualche anno c'è la buona condotta, c'è il sovraffollamento, indulti, indultini, permessi, permessine, alla fine boh. E allora qual è il problema? Come risolvere il problema? Costruite altre carceri, fate spazio, ma mi pare che c'è la Cinara vuota, e allora riapritela, non lo so, a riaprirla la Cinara. Vabbè, me oggi c'era sulla Nuova Online, no? Non credo sul giornale, ma sulla Nuova Online, perché è successo, credo, da poco. A Florinas, due fratelli si sono afferrati, un fratello l'ha preso a roncolate. E insomma, sono intervenuti i carabinieri, non capivano qual era il motivo di questo bisticcio. E li guardano da in casa e li hanno trovato vari sacchetti con marijuana pronta allo spaccio. Capito? Sempre così fanno. Quando non c'è altro coso di guadagno, c'era anche di mezzo un romeno, quando mai non ci sono in mezzo i romeni, per carità. Quelli non mancano mai. Quelli non mancano mai. Si dà da tutto e oggi è più che mai, stanno andando, più ne prendono più ce ne sono. C'è stato l'altro romantica, io non so come boh. come si fa, ragazzi? Prendono tanti ma tanti e crescono ugualmente. Quella roba frutta è per cui si danno a tutto, perché non c'è altra soluzione. Allora si dedicano a rubare per vendere tutta questa roba, cioè, per ammazzare la gente. Adesso ve ne racconto una. Tanti anni fa, no? Quando ormai nonno era già morto, qualcuno aveva nascosto nei nostri terreni dei sacchi di marijuana piena, già essiccata, sacchi pieni. E dice che durante un giro di perlustrazione i carabinieri hanno trovato questi sacchi e li hanno sequestrati, no? E hanno detto, anche hanno citato sul giornale, di terreni in proprietà di Gavino, eccetera, eccetera, ormai defunto. Ma ogni tanto io vado a Florinas a fare un giro, a vedere se è tutto a posto. A saperlo me li sarei fumati tutti io. Addirittura. Che ti soffra? Non ho ascoltato bene, perché stanno superando la preparazione, lo stanno superando. Non ho ascoltato bene a te. Ok, vai tu la senti bene, sì? A Puglia io, intendi lui io. Marco, no, non guastarti la persona del coso che tutta un anno già troppo difficile. C'è magia a trovare i sacchi, li avrei fatto arrotolato ma le sei rifumati in seduta stante. A proposito, in Canada hanno liberalizzato la marijuana, il cannabis, capito? Così la tolgono dalle mani della criminalità. Perché magari quando parla di Maria, quelli là, quello più forte non entra, però a volte entrano e qualcuno mi arriva anche dove vivo. Abbiamo parlato in due forse, ho detto, così lo sente anche Franco, in Canada hanno liberalizzato il cannabis, la marijuana. Giomari, fai da ponte. Ok. Non hai sentito Fra? No, negativo. Ripeto Fra. Marco, ripeti che anch'io ero un po' disattento. Ho detto, in Canada hanno liberalizzato la marijuana. Ah, in Canada, ma ha liberato la marijuana, Fra, l'ho detto. Boh, adesso sarà peggio. Sì, ho sentito quando l'ha detto quello adesso. Intanto lì la fanno e poi la mandano qua. No, lì è a livello locale. Poi in Canada non prende, capito? Bisogna usare le serre. No, ma per dire, i radicali la volevano liberalizzare anche qua per toglierla dalla malavita, capito? Dal crimine. Naturalmente deve essere controllata, ci devono essere delle regole. E poi hai visto la gente col vino, con la birra, come si riduce? Non credere che sia molto peggio di quella. Eppure il vino è legale, la birra è legale, i superalcolici sono legali. Eppure riducono la persona proprio... Non so manco come definirlo. Ma infatti è questo, quella roba fa male, c'è poco da fare. Davvero, quella roba fa male, per cui sia l'altro anche la droga è peggio ancora, si butta a terra in poco tempo, capito? E l'alcol è la stessa cosa, così che insomma o morirà o morire di droga. Marco, però c'è una cosa da dire, dal vino, dalla birra e dall'alcol, se prendi una droga domani mattina sei a posto, sei tranquillo, ma da quella roba lì non sei tranquillo per niente, perché ti rimane sempre la cicatrice. La marijuana, se uno non ne fa abuso come l'alcol e come tutte le cose, è una fesseria. Proprio la marijuana è una fesseria. Invece non bisogna andare verso droghe più pericolose, quali la cocaina, l'eroina o se no quelle, come si chiamano, LSD, quella roba lì, ma non arrivano alla fesseria, una fesseria. Certo, come tutte le cose, se ne abusi ti fa molto male, ma se non ne abusi non va, ma va bene. Poi dipende dai paesi, qua dipende dai paesi, dai. Riprendo io, mi stanno chiamando. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Franco, ciao Gio Maria e ciao Marco. Alle prossime, a domani, se tutto coincide. Ok, ciao a tutti. Ciao, anch'io qui, sono già le 8 passate, per cui approfitto, dai. A domani se coincide. Ciao, ci sentiamo, saluto di casa. Ciao Fra, buon proseguimento di serata. Buonasera anche a Marco. Saluta Liu. Ci sentiamo, vai Marco, riprendi tu, io chiudo, vai. Buon proseguimento, a domani. Eia, ciao Tore, buona serata. E anche a Gio Maria, buona serata, la sentiamo. Va bene. Franco non mi sente, quindi, a meno che non gli abbandona a telare. A volte non ti sento per niente, Marco, non ti sento. Comunque a te, ciao Gio Maria, ciao anche a Tore, ci ascoltiamo per le prossime, dai, buon proseguo, buon tutto, ci ascoltiamo le prossime. E niente, vabbè, sono già le 8 solo, me la vado tra pochi minuti, dovrò andare anche a mangiare. Ci sentiamo. Ciao Marco, buon proseguo, buon tutto, dai, ci sentiamo. Io vado a fare il caffè. Ciao a tutti, ciao Franco, ciao ciao. Ciao, ciao.